col Pietro Pisa, Pisa, col Pietro Pisa, con un mic ma sul barbone nel metà, ma da tina di te te cosa ti vieto, e se te tu c'è solo come te cosa ti vieto, hai compo? E un bloc, bloc, ta te cosa ti vieto, te cosa ti vieto, te cosa ti vieto, te cosa ti vieto, hai un bloc, po?